Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. È tutto pronto all'isola del Giglio per dare il via all'operazione di rotazione del relitto della Costa Concordia. Il gigante emerge, si alza, si assesta. Sembra quasi un sogno. La nave è stata riportata in asse 19 mesi dopo il naufragio all'isola del Giglio. Soddisfazione del capo della Protezione Civile Gabrielli. La rotazione ha esaurito il suo percorso, la nave si è appoggiata anche sulle piattaforme. Ha ceduto nel pomeriggio il primo dei 19 cassoni che servono per il rigalleggiamento della nave. La causa del cedimento del cassone è stata dovuta ad una catena che non era tenuta bene in tensione. Un imprevisto che era programmabile, che non allunga i tempi di rimozione, anche se inevitabilmente ci sarà una ripercussione sul progetto che andrà rivisto. Non c'è pace per la Costa Concordia, così sembra. Il naufragio nella notte di quello sciagurato 13 gennaio del 2012, il dolore per la morte di 32 passeggeri, poi la rimozione del relitto accasciato su un fianco. Sembrava un'impresa impossibile, invece alle 4 di notte del 17 settembre la Costa Concordia è stata rimessa in asse. Il prossimo difficilissimo obiettivo è quella di vederla in un porto. Ecco, ieri però c'è stato un incidente. Uno di quei cassoni, avete sentito, montati sul fianco sinistro della Concordia, ha ceduto. Ingegner Silvio Bartolotti, amministratore delegato, socio di maggioranza di Micoperi, la società che ha realizzato il miracolo di riaddrizzare la Concordia. Ma adesso cosa è capitato? Buongiorno, ingegnere. Buongiorno a lei, dottor Minoli, è sempre un piacere sentirla. Anche per me. Grazie. Ma cos'è successo? È successo un inconveniente determinato, come già stato detto, da una catena che era avvisiata sotto la nave. Il cassone numero 13, il numero 13 non porta molto bene. Abbiamo avuto lo stesso problema sul cassone numero 13 dall'altro lato della nave, quindi vediamo di chiamarlo 12 bis d'ora in poi. 12 bis, il cassone. Con un po' di scaramanzia. Ecco, no, La catena che quel cassone, che è un cassone orizzontale, è uno dei più grandi, praticamente deve essere collegato durante il rigalleggiamento con 6 catene. Di queste 6 catene ne sono passate solamente 4, quindi le altre 2 passeranno quando gli altri cassoni contribuiranno. Quando lei dice, scusi ingegnere, quando lei dice passato, vuol dire passato sotto la nave? Sotto la nave, perché i cassoni di dritto sono collegati con i cassoni di sinistra tramite delle catene. Ah. E quindi, siccome non c'è la possibilità di saldarli come è stato fatto sul lato di sinistra, sul lato di dritta sono in appoggio e quindi devono essere tensionati, e sono tensionati tramite queste catene. E questa catena si è rotta? No, non si è rotta, è che era appissiata sotto la chiglia della nave e 3 o 4 maglie, sembra così, ma anche poca distanza fa la sua differenza, non essendo attaccate tutte e 6, una nel momento in cui è stata messa in tensione ha raccolto la catena mancante, il cassone si è inclinato, appoggiava su una catena centrale, quindi si è inclinato da una parte ed è successo, insomma, ma d'altro canto in lavori così complessi purtroppo sono portatori anche di qualche imprevisto. Certo, la complicazione è alta. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, ma adesso ingegnere Bartolotti, temete per i cassoni già montati? No, assolutamente. Gli altri hanno tutte le catene. Sono saldati quegli altri? No, sono sempre appesi alle catene, stiamo già montando anche gli altri. Questo cassone che ha subito leggeri danni viene smontato, riparato e ricollocato. Ecco, ma cosa può capitare con questo? Qual è il rischio adesso? Nessuno. Nessun rischio? Ma è tanto rumore per nulla allora? Sì, tanto rumore, anche perché quando si muove del ferro contro ferro ne fa tanto. Ah, cioè, però, c'è stato un grande boato? Sì, sicuramente. Quindi la gente si è spaventata. È rumore perché tutto ciò che riguarda la Costa Concordia, anche le cose più elementari costituiscono sicuramente motivo d'allarme. Certo, quindi, naturalmente, però lei dice rischi zero? No, rischi assolutamente nessuno. Ecco, ma queste operazioni, i passaggi, il succedersi di queste operazioni vengono approvati dall'osservatorio di monitoraggio per la Concordia, così? La procedura? C'è un lavoro di equipe, ci sono le procedure che vengono rispettate. Ma non è cambiato assolutamente nulla rispetto. Quindi al voi progetto. State tranquilli, io ho letto però che lei addirittura ha iniziato un'indagine interna per sapere cosa. Ma mi sembra che la cosa sia più che naturale, cioè nel momento in cui sono state tensionate queste catene sotto l'osservatorio, molto probabilmente è stata tensionata leggermente di più una catena centrale, che è quella che ha permesso il movimento oscillatorio del cassone. Quindi, ecco, ingegnere, è giusto sapere se quando nasce un inconveniente non è mai fine se stesso, certo, quindi c'è certo. sempre bisogno di conoscere nel dettaglio cosa è successo, perché la cosa più importante nell'ambito di questo lavoro, mi creda, è la sicurezza. Non c'è dubbio. Ingegner Bartolotti, ecco, ma volevo sapere, adesso la prossima fase è svuotare tutti i liquidi inquinanti che sono ancora dentro la nave, no? Se ho capito bene. Guardi, è così? A me non risulta. Ah, no. Poi dopo se ne scrive di tutto e di tutto. Ah, ecco, allora ci fa chiarezza su questo punto? Sì, ma guardi, i liquidi che sono dentro quella nave è l'acqua che normalmente circola all'interno del mare, perché oramai c'è stato un ricambio continuo e quindi di pericoli io non ne vedo assolutamente nessuno. È chiaro che noi abbiamo il dovere, l'obbligo di tenere monitorato qualsiasi cosa, perché anche lì i serbatoi del gasolio sono stati tutti completamente svuotati, quindi noi non eravamo presenti. Quindi lei considera che il progetto avanza secondo i tempi prestabiliti, diciamo? Assolutamente sì, il nostro obiettivo è comunque di finire per la fine di giugno l'installazione dei cassoni ed essere pressoché pronti al rigaleggiamento. Poi bisognerà portarla da qualche parte. E quello non è un compito nostro. Ma lei ha un'idea di dove potrebbero andare? Ma guardi, io sono come lei che se ne sento parlare le scelte potrebbero essere quelle nazionali o quelle internazionali, ma mi sembra che i porti di destinazione siano rimasti in pochi. Insomma, deciderà la politica. Ma deciderà molto probabilmente la compagnia della Costa, prima di tutto, la compagnia d'assicurazione, e la politica svolge sempre un ruolo in qualsiasi. Vabbè, ingegnere, allora io la ringrazio molto per la sua disponibilità e auguri per il completamento del lavoro. Grazie ingegnere. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Allora, l'amico Peri sta rispettando i tempi, abbiamo sentito, adesso bisogna capire se lo farà anche la politica, che deve scegliere il porto dove la Concordia verrà smaltita. Ecco, Raffaella Calandra, buongiorno, inviata buongiorno, di Radio 24. Ciao, stai seguendo da mesi questa vicenda. Ecco, ce l'hai lo scoop? Hai scoperto quale sarà il porto dove va la Concordia? Purtroppo no, però sappiamo, come sa perfettamente anche l'ingegnere, che ormai la corsa si è ristretta dai 30 candidati internazionali, ormai di fatto è una corsa a tre, ossia tra un porto vicino a Smirne, quindi la Turchia, oppure Civitavecchia e Genova, anche se le cifre date dal commissario Gabrielli hanno fatto capire che Civitavecchia è fuori mercato, perché i prezzi sono di circa 200 milioni contro i 40 della Turchia, quindi di fatto sarebbe una corsa tra la Turchia e Genova. Ma quindi la Turchia è quella che costa meno? La Turchia costa meno 40 milioni di dollari, ha detto il prefetto Gabrielli. In realtà in origine l'offerta più bassa è arrivata dalla Norvegia, che però è stata esclusa per evidenti ragioni, diciamo, logistiche. La Turchia costa meno anche perché in Turchia, diciamo, costa meno la manodopera, e c'è una forte preoccupazione anche sulla modalità di smaltimento delle navi rispetto alla Convenzione di Basilea. Qui stiamo parlando del costo dello smaltimento, no? Cioè dell'operazione, ma non del trasporto. No, il trasporto quanto costa? Sarà diverso portarla in Norvegia oppure portarla in Turchia o portarla a Genova? Assolutamente sì, la Norvegia è stata esclusa. Sì. Se dovesse andare in Turchia verrebbe portata con questa Vanguard, che è la più grande nave cargo, quindi una sorta di un cargo, appunto, quindi messa su e portata in Turchia, mentre se dovesse esserci una scelta italiana verrebbe trainata, quindi i costi sono diversi, ma comunque anche con l'utilizzo di questa Vanguard, che è stata già, diciamo, opzionata, già prenotata in un certo senso dalla compagnia, la soluzione turca sarebbe più bassa, ed è per questo che c'è questa componente economica così forte. Però, come ricordavate già prima, la scelta è di carattere più ampio. Sicuramente, insomma, chi la farà alla fine? La Costa, la politica, chi è che fa questa scelta? Allora, c'è questo tavolo. La Costa innanzitutto, che è una compagnia privata e che ci metterà i soldi, fino adesso ha speso anche già oltre 1 miliardo di euro per tutta la vicenda Concordia, però il tavolo che vedrà gli attori della scelta, oltre alla Costa, vede anche il Ministero dell'Ambiente, delle Infrastrutture e della Regione Toscana. Ma che cosa devono decidere loro? La politica cosa c'entra? Sarà un problema economico, no? È un problema economico, però c'è anche il discorso che la Concordia, dicevo, una sorta di risarcimento per tutto quello che il disastro della Concordia ha significato, oltre alle 32 vittime, anche i danni per l'isola del Giglio e tutto anche il discorso dell'inquinamento dell'ambiente. Vabbè, ma nel momento in cui va via, nel momento in cui se ne vanno... Sì, no, il risarcimento, cioè, per quello che è stato fino adesso, perché smaltire la Concordia è un'operazione da circa 300 milioni con un lavoro per circa 3 anni per un cantiere. Per questo c'è stata tutta questa corsa per aggiudicarsi l'operazione Concordia, perché rimetterebbe anche Piombino, contava addirittura di rimettere in sesto il porto che stanno riammodernando e di riattivare anche tutta la filiera dell'acciaio, della Lucchini, Claudia, che invece poi è andata come è andata. Claudia da Genova ci scrive: chi se ne frega di sti particolari sulla nave, invece sono molto interessanti, perché se non si riesce a portar via poi i problemi saranno grossi, che la tolgano però e diano lavoro a un porto italiano. Vabbè, insomma, questa è la soluzione che anche il ministro Galletti ha più volte invitato, ha sollecitato e auspicato. È evidente che la politica preme perché ci sia una soluzione interna, non è una scelta che spetta esclusivamente alla politica, però sappiamo che ha chiaramente incide. Una voce in capitolo. Ecco, Giulio ci scrive: scusate, ma non ho capito chi deve pagare per i costi di smaltimento. La Costa, ecco. E poi la Carnival, che è appunto la società. Vabbè, la padrona della sì, Costa. Esatto. Insomma, l'ultima parola alla fine. Marisio però sul Corriere ha scritto: non appena la palla è passata alla politica, la Concordia, che era riemersa, si è subito impantanata. Vabbè, insomma, forse... Per queste ragioni ci sono una serie anche di pressioni e di tentativi per far pressione, anche perché la scelta ricada sull'Italia, e sappiamo bene come le pressioni non sono soltanto è una moral suasion che agisce su molti filoni, c'è anche Fincantieri in campo. Vabbè, insomma, staremo a vedere, è sempre un giallo all'italiana. Grazie e buon lavoro. Ciao Raffaella, ciao. Mi si restringe lo stomaco, mi sento abbandonato. Ci penso notte e giorno, sogno cucinato. Ho ancora molte cose da capire su come sono fatte le persone. Pensiero un po' di storia da scordare. Il sogno come un sogno e non posso. Pietrangelo, oggi perché? Qua oggi perché? Eravamo. Dove eravamo? Quando dove eravamo? Hai sentito? Dove hai eravamo? Visto? Eravamo per strada. In metropolitana? In metropolitana devo dire una cosa. Devo dire una cosa. Oggi era particolarmente cloaca. Sì, perché vorrei segnalarlo al sindaco Ignazio Marino. Ma l'uscita proprio della stazione Termini aveva un olezzo da cloaca che non dico che mi ha riportato alle memorie dei testi di liceo quando veniva descritta la fogna tale della cloaca maxima, che insomma si sia arrivati a questo punto, a questo livello già. Beh, basta farsi un giretto detto a Roma, detto vedi ciò, di tutto. Questa canzone invece, ecco, perché fuori all'aperto, dove finalmente il cielo ha questa sua zuppa meravigliosa di luci e di suoni, tomo tomo, cacchio, si è capito che sta arrivando il bel tempo, e si affaccia dunque in forza di un'energia che però è tutta mattutina, perché poi già a metà giornata incombe invece che cosa? Quella sensazione proprio di essere acchiappati da Morfeo nel primo pomeriggio. Si chiama in sardo, si chiama Callella. Insomma fa caldo, insomma sì, fa caldo. Sì, comincerà la canazza. E cioè quel momento in cui bisognerà cercarsi uno spicchio d'ombra per riposare, quindi tiri chi tolla che trovi la molla e tinturia. Vabbè. È in pieno bric-a-brac. Sì, Mario, le bolle oggi cosa ci riservano? Senti. 20 per giocare. No, 500 a partita. Stai dicendo sul serio? Io non scherzo mai sui soldi. Non si scherza mai coi soldi, soprattutto quando c'è Paul Newman e Tom Cruise. Questo era Il colore dei soldi, un fantastico film. Perché parliamo di soldi? Facciamo certo. Un po' un giretto nelle banche centrali. Ieri c'è stata l'audizione, come avevamo sì, detto, ne avevamo parlato, di Janet Yellen, che è il capo della Fed, della Federal Reserve. Ha rivelato, insomma, che la strategia della Banca Centrale Americana per ora non cambia, quindi sosterranno ancora la crescita con tassi bassi. Ha espresso preoccupazioni per due cose, stavo leggendo adesso il verbale. Una sono le tensioni all'estero, quindi Ucraina compresa, ovviamente è il problema dell'uscita dei capitali dai mercati emergenti. La seconda riguarda il mercato della casa americano, che è abbastanza ancora lento, cioè non c'è una ripresa così forte. Tu sai che la casa non tira, solo in America ovviamente, ma tira, perché vuol dire mutui, costruzioni, vuol dire un sacco di cose. La stessa cosa, diciamo la stessa strategia di sostegno alla crescita, la farà anche James Carney, che è il presidente della Banca d'Inghilterra. Tutti si chiedono a questo punto che cosa farà la BCE, certo. E soprattutto dove è finito il famoso piano di acquisto di, dei mille miliardi per sostenere anche qui una crescita. Niente, tu che dici? Parcheggiato. Però segnalo che l'Economist ha fatto un pezzo molto critico sulla BCE questa settimana, chiedendo tweez, cioè di decidere di acquistare, di usare questi soldi. Quindi vediamo un po' che cosa succede. È una fase molto interessante per l'economia, ahimè la politica interna io non so è una fase dire. Interessante anche per la nostra quota rosa Sara Tardelli, perché siamo subissati da richieste di sentire la sua voce, la sua opinione. E anche noi subissiamo. Noi bissiamo e basta. E invece, visto che siete contenti di sentirmi, vi dirò subito questa cosa. La Commissione Europea ha pubblicato il rapporto annuale, quello sulla parità di genere. E il titolo che io solo, Sara, darei a questo rapporto è: ma chi va piano, va sano e va lontano? Cioè, noi donne avremo lo stesso stipendio dei maschietti fra 70 anni. Per portare l'occupazione femminile al 75% invece ci vorranno 30 anni e per un'uguale rappresentanza in Parlamento 20, insomma dai, ci siamo, no? Siamo lì, sì. Siamo. Però la cosa che mi ha dato più fastidio ancora è che hanno calcolato il lavoro medio a settimana delle donne e noi lavoriamo 10 ore in più di voi uomini, quindi cosa mi date in cambio adesso? Un bacio. No. Una canzone. E le rose! Ci fregate sempre così. Sento odor di salamini. Come su di un filo, così si cammina a maggior ragione quando si tratta d'arte, di letteratura, di musica, di spettacolo, di cultura. Insomma, ieri Silvio Berlusconi a Forza Italia ha radunato il meglio in tema di stati generali, della cultura, delle arti, dello spettacolo e ha offerto al pubblico che l'ascoltava una sua lettura e interpretazione di un celeberrimo passo poetico dedicato a Napoleone Bonaparte e che io adesso provo a ripetere con le parole utilizzate da Berlusconi riferite a se stesso. Ehi fu, siccome ignobile, dopo il feral sondaggio frema, si indigna ed esplode in un fatal messaggio. Dichiara affranto e triste, ormai lo dico piano, la destra non esiste se non ci metto mano. Per continuar l'impegno e non esser franto, devo cambiar contegno, oppure solo pianto. Oppure, aggiungo io, far come fece quell'altro grande, non quello all'Elba, ma un altro grande, anche lui brevilinio, che così fece. Renato Chinati rai fulminei, le braccia al sen concerte. Mi pareva d'aver fatto una grossa confusione. Napoleone, Napoleone, Napoleone. Grande Raschel. Grande Raschel. Vai con un'altra bolla. Vai. No. Eccolo qua. Il coro dell'Armata Rossa. Perché? Perché adesso dobbiamo commentare il ritiro di Putin. Ritiro tra virgolette. Perché il ritiro non è. Le sue truppe si sono solo un po' allontanate dai confini ucraini. Dimmi, Pietro. Posso dire una cosa? Dilla pure. Ma perché giusto ieri gran parte di queste truppe di Putin si sono presentate a Bari perché ieri era la festa dei foresti, ovvero sia i pellegrini che dalla Russia arrivano a Bari per proclamare a maggior ragione la santità di Nicola. San Nicola. Oh, quindi insomma, non è che si è ritirato, si sono un po' spostati. Qualcuno dice una furba mossa di relazioni diplomatiche, sì, può darsi, però è anche tipico in realtà della diplomazia del Cremlino. Una cosa è certa, le sanzioni stanno colpendo già in realtà le aziende europee. Société Générale, francesi. Hanno praticamente svalutato per 525 milioni di euro una parte delle loro attività, cioè gli asset in Russia, e i profitti nel primo trimestre sono già calati del 13%. E continuate così. Ma Putin ha già vinto, si è preso la Crimea, l'Ucraina è di fatto divisa in tre parti. Il generale Jean ce l'ha spiegato benissimo ieri. Cioè, non la vuole neanche lui una guerra vicino ai suoi confini. C'è una vecchia dottrina che dice sempre che i russi non vogliono problemi al loro interno. C'era il grande diplomatico Gorchakov che quando la Russia perse in Crimea scrisse una nota ai suoi diplomatici che dovevano trattare per non avere problemi con gli altri vicini e disse: la Russia non tiene il broncio, sta ricomponendo se stessa. È quello che capita. È questo. Mix 24. Non siamo scappati, siamo ancora qui. Speriamo che tutta questa pubblicità ci porti un po' di incremento nelle nostre entrate. Abbiamo bisogno di una canzone d'amore. Ci sono anche i delinquenti. Non bisogna aver paura, ma stare un poco attenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati. Ho l'impressione che questa canzone d'amore di Sara non sia per me. Sara, perché è questa canzone? Lo sa chi lo deve sapere. Ah, siamo arrivati all'uso privato del mezzo pubblico. Sì, sì. Siamo veramente ci messi sono male. I nostri ospiti. A grande richiesta al telefono, come sempre a spese loro, Dudù e Aiace Telamonio, i cani di D'Alema e Berlusconi. Bene. Allora, mi dispiace, io devo intervenire, Giovanni. È accaduto un fatto grave. Abbiamo ricevuto una nota della GCOM. Siamo fuori dalla par condicio. Come? Più pare di così? No. Siamo fuori dalla par condicio, siamo in periodo elettorale, c'è una nota e abbiamo un altro ospite. Un bambino? È il gatto di Grillo. Ah. No, perché si sapeva. Ma io ve l'avevo detto, che avremmo avuto delle proteste. Ma loro non vogliono partecipare? No, allora, io però gliela faccio una domanda al gatto di Grillo, lo traduci tu perché hai fatto le alte scuole. Beh, sì, certo. Allora, il gattese lo conosco. Lo conosci il gattese? Ok, allora, quanto prendete alle europee? Senti, vediamo se... Mazzo. Mi scusami, sarà la G-Com, sì, mi dispiace deluderti. Dobbiamo temperare l'obbligo. Intanto è stato chiaro. Intanto si chiama Paolino. Paolino? Sì. Però è stato chiaro. Può ripetere Paolino? Sta dicendo che se non gli arriva il versamento del cachet pattuito col piffero che parla... Ah, i nostri cani che fanno? Si fanno pagare anche loro? Allora, ecco, sì. Dunque, innanzitutto, c'è un'inversione oggi. Vuole parlare per prima Aiace Telamonio, quindi... Aiace, ma... Se vuoi fare la domanda. Ma certo, ma se i deputati 5 Stelle restano incatenati... Come dice D'Alema, la politica ritroverebbe la strada maestra? Accidenti. Grazie. Allora, Iace dice che apprezza tantissimo il tuo stile, certo, le tue domande, che sono sempre ancora precise e dirette. Però dice che... Com'è che ha detto Iace? Ah, sì, scusa. Sì, chiaro. Dice Iace che Massimo D'Alema ha semplicemente constatato il desiderio dei parlamentari 5 Stelle. Io cerco di interpretare anche il suo temperamento, di volersi ammanettare, e ha assicurato loro la possibilità di dargli uno streaming, cioè di far vedere in diretta come si incatenano e provvederà. Provvederà Aiace Telamonio stesso a rosicchiarne le gambe. Per non dir le chiappe. È partito. Sentiamo Dudu. Dudu rapido. Dudu, guarda, io ho una domanda molto secca. Ma cosa sta succedendo alla Procura di Milano? Oh, pare che la Boccassini non avesse titolo per fare quell'interrogatorio, la questione Rubi. Dudu freme, vuole... dici tutto. Dudu dice: il Papi ha sempre ragione, l'aveva detto, però com'è che era? Si stava facendo una trappola, perché quella cosa monella di Angelino Alfano stava piazzando Renato Schifani al CSM. Renzi lo stava facendo, ma Papi ha bloccato tutto. Renato Schifani al CSM, non piuttosto, piuttosto con me al parco. Grazie. Professor Simonelli, ha visto qua, oramai siamo in piena varietà. Meno male, questo canone ieri sera dov'era? Ha sentito la puntata di ieri? Ieri pomeriggio, l'altro ieri ancora, era assolutamente su Sky Atlantic, perché è partito Gomorra. È partito Gomorra con grande attenzione, grande consenso, grande successo, per cui io, non per fare il bastian contrario, vorrei sottolineare due elementi critici. Il primo è che questo scenario, questo sfondo, insomma, rischia appunto di diventare uno sfondo, nel senso che rischia, insomma, un po' la ripetitività, rischia di diventare uno di quegli sfondi cinematografici su cui poi si innestano le storie. L'altro rischio è quello dell'azione. Si è trovata una location. L'azione che è molto curata, inseguimenti, sparatorie, girato molto bene, montato molto bene. Molto bene, però insomma alla fine c'è il rischio che questo prevalga invece sull'approfondimento, sul sentimento di indignazione che professore non le è piaciuto, ho capito, va bene. Oggi avremo la seconda puntata del Misteri del Caso Moro, Marina Milone ce lo racconterà, e in chiusura ne parlerà con Miguel Gotor, la puntata realizzata da Carlo Durante e Marco Melega.